Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 18 novembre, benvenuti di nuovo a tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il nostro programma che fa da ponte tra il carcere e la città, che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, sulle nostre emittenti, che sono Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV Canale 118. Buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, oggi parliamo di Torino, dove una galleria d'arte dietro le sbarre nasce e si colora di colori proposti anche dai detenuti, tavole nuove. La traggo la notizia da La Voce e il Tempo, a firma di Marina Lomunno, perché è una notizia questa che in realtà prende lo spunto da una celebre frase di Dostoevskij, che molto spesso è anche abusata, e ovvero è la bellezza salverà il mondo, dal romanzo L'idiota. E è una frase spesso abusata e che torna in mente anche a chi tra i detenuti del carcere Lo Russo Cotugno percorre tutti i giorni quel tunnel, diciamo, quel corridoio lunghissimo di 183 metri che è all'interno del carcere, che è del tutto spoglio, sgarruppato, sporco e scrostato. E quindi, insomma, questo è lo spunto per pensare la bellezza come salvezza. Caterina, benché questa frase effettivamente sia abusata, la bellezza salverà il mondo, io ne sono fermamente convinta. Anche se c'è qualcuno che dice, ma allora non è mica un grande albergo, siamo in carcere. Ci sono tante le persone all'esterno che dicono questa cosa, effettivamente, ma è anche risaputo, noi potremmo rispondere a queste persone, che il colore, la pulizia, la cura di un ambiente, anche se luogo di detenzione, può aiutare le persone soltanto in positivo. E infatti questa è la grande intuizione di Giulio Lucente, che è curatore del progetto di decorazione del carcere, che in collaborazione con la sezione carceraria degli studenti del primo liceo artistico di Torino ha trasformato questo lunghissimo corridoio, questo tunnel, in una galleria d'arte, riqualificando uno degli accessi al penitenziario dove ogni giorno transitano detenuti ma anche operatori carcerari. E il risultato del lavoro di ritinteggiatura è stato inaugurato lo scorso 30 ottobre dalla direttrice del carcere Rosalia Marino, che ha anche aggiunto che, e sottolineato che questa è la prima volta che un ambiente comune viene abbellito, che il risultato è stato talmente favorevole che più corridoi del penitenziario ora verranno ingentiliti dal colore. Alla base del progetto c'è l'idea di creare un ambiente accogliente in una struttura di coercizione che, per sua stessa natura istituzionale, dice Giulio Lucente, dovrebbe comunque cercare di favorire il recupero di un nuovo equilibrio negli utenti che ospita, e io di questo sono fermamente convinta. Caterina, hai ragione, perché è molto importante stare nel bello, e questo mi sembra più che un ambiente accogliente anche una vera e propria galleria d'arte, questa forse è l'idea. Infatti, perché dopo aver rinfrescato muri e infissi, si è passati alla regia dell'architetto Marilena De Biase per allestire sulle pareti i pannelli realizzati dai reclusi allievi del liceo, come dicevo sopra, artistico, che hanno conseguito la maturità, ma anche dei ex detenuti, allievi di altre scuole di arte e pittori, con la collaborazione di un agente di polizia penitenziaria. Il tema conduttore di queste tele realizzate dagli studenti detenuti è stato tratto da due film molto famosi. Uno forse lo conoscete in tanti, è Nella città dell'inferno, un film del 59 con la regia di Renato Castellani, con la famosissima Anna Magnani e Giulietta Masina, che parla della detenzione femminile, e un altro film che è invece un film comico americano, un film cult anche per le situazioni di assurdità che troviamo all'interno del film, che si chiama Hell's a Poppin', che significa Scaturito dall'inferno, ed è un film del 1949 con la regia di Harry Potter. L'accostamento di questi pannelli ha creato così un percorso lungo le pareti del Corso Francia, che è il corridoio del carcere, che attraverso l'arte conduce all'inizio di una nuova esistenza. E i pannelli, ha concluso anche Pier Luigi Dovis, che è il direttore della Caritas diocesana, questi pannelli hanno fatto anche scoprire nuovi talenti in carcere, perché effettivamente ci sono persone molto portate con l'arte. Si è riusciti a trovare, unendo le forze, delle competenze, a contribuire a rendere possibile l'umanizzazione in un luogo di pena. L'arte e il colore, ha aggiunto Don Pierluigi, aiutano chi è dentro a guardare oltre le sbarre e a considerare che il carcere è solo il passaggio e non la vita futura. E queste sono parole bellissime che mi danno anche l'aggancio per lanciare un'altra canzone bellissima di Elton John, Rocket Man, che forse conoscete tutti e che, a cui è dedicato anche il film su Elton John, che è uscito da pochissimo, lo trovate anche su Netflix per chi ce l'ha. E tra poco, a tra pochissimo, sempre su Liberi Dentro Du Radio, ascoltate la canzone e ci rivediamo tra poco. As a kite by then, I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Eccovi, bentornati dopo la pausa musicale, sempre su Liberi Dentro di Radio TV, con Antonella, anzi, ieri con te Antonella, stavamo discutendo del caffè, che è stato uno delle mie maggiori vizi, diciamo, e però, insomma, ha avuto anche, è una sostanza che ha anche benefici e non solo. Sì, Caterina, mi spiace parlare del caffè in tua presenza, perché so che magari, forse, ti farebbe anche voglia di berne un sorso, ma... Ascolta, sai chi consuma più caffè al mondo? È un po' una provocazione, non sono gli italiani. L'Italia pensa solo al decimo posto, perché insospettabilmente ai primi posti ci sono i Paesi Bassi, proprio al primo, e poi molti paesi del nord Europa. È incredibile, anch'io sono rimasta veramente molto meravigliata. Poi vorrei raccontarvi la storia del caffè, perché nel 400 il caffè veniva coltivato nell'Africa orientale ed era venduto in tutta la penisola arabica. Inizialmente la nuova bevanda era considerata un aiuto per la concentrazione e fu usata, penso un po', dai sufi dello Yemen, per non appisolarsi durante le funzioni religiose, così come il tè, allo stesso modo, cominciò a diffondersi tra i monaci buddisti che si sforzavano di rimanere svegli durante le lunghe meditazioni. E nel giro di un secolo spuntarono caffetterie nelle città di tutto il mondo arabo e nel 1570 ce n'erano più di 600 solo a Costantinopoli, e durante l'impero ottomano si diffuse poi a nord e a ovest, quindi dappertutto praticamente. In questo periodo il mondo islamico era per molti aspetti più avanzato dell'Europa a livello scientifico, tecnologico e culturale, ma anche se è difficile dimostrare che quella prosperità avesse qualcosa a che fare con la diffusione del caffè e con la proibizione dell'alcol, ovviamente. Ma come ha sostenuto lo storico tedesco Wolfgang Schievelbusch, la bevanda sembrava fatta su misura per una cultura che proibiva il consumo dell'alcol e aveva creato la matematica moderna. Ma parlaci invece dell'Europa, dopo questo dato sorprendente che non sono gli italiani i primi consumatori in Europa, com'è la storia del caffè? La storia del caffè è che nel 1629 a Venezia nacquero i primi caffè europei in stile arabo-turco. E in Inghilterra il primo locale fu aperto a Oxford nel 1650 da un ebreo immigrato e poco dopo le caffetterie arrivarono a Londra e si diffusero ovunque. E definire quei luoghi un nuovo tipo di spazio pubblico è riduttivo perché era veramente un luogo frequentatissimo. Pensa che una tazza di caffè costava un penny, ma le informazioni sotto forma di giornali, libri, riviste, conversazioni, incontri erano gratuiti. Infatti, queste caffetterie venivano anche chiamate università da un penny. E nei caffè londinesi si parlava ovviamente di politica e questo faceva infuriare il governo, soprattutto dopo la restaurazione della monarchia nel 1660. Pensa che Carlo II, preoccupato di possibili complotti, vedeva questi luoghi pericolosi, proprio pericolosi focolai per ribellione e comunque perché si univano le persone a congiurare contro di lui, questo lo riteneva, e nel 1675 decise di chiudere il caffè. E con tante altre sostanze che modificano la qualità della coscienza negli individui, quindi la caffeina fu ritenuta una minaccia al potere, tanto che decise di vietarne l'uso. Un'offensiva che però durò 11 giorni, tant'è che dovette ritirare tutto e si rese conto che nessuno rispettava questo divieto. Però quando decise di annullare il divieto lo fece per condiscendenza principesca e compassione regale. Comunque una considerazione in realtà si può fare. Difficilmente il tipo di fermento politico, culturale, intellettuale che rivolliva nei caffè di Francia e Inghilterra nel 600 si sarebbe potuto sviluppare in taverna. Immaginati davanti a un bicchiere di birra o di vino? Non credo. Il tipo di pensiero magico che l'alcol provocava nella mente medievale infatti cominciò a cedere il passo a un nuovo spirito razionale e poco dopo al pensiero illuminista. Lo storico francese Jules Michelet scriveva infatti: il caffè, la bevanda sobria, il potente nutrimento del cervello che a differenza di altri spiriti accresce la purezza e la lucidità, il caffè che dirada le nuvole dell'immaginazione e il loro cupo peso, che illumina improvvisamente la realtà delle cose con il lampo della verità. Insomma, vedere lucidamente la realtà delle cose era in estrema sintesi il progetto razionalista e il caffè diventò insieme a microscopio, telescopio e la penna uno degli strumenti indispensabili. Tanto per rimanere in ambito di caffè e di luoghi di produzione del caffè, ascoltiamo Bia Ferreira con la canzone Toam Líquido Assao e poi ascoltiamo ancora l'intervista, la continuazione dell'intervista ad Antonio Mero dell'associazione Mai Più Solitudine. A dopo. Uma garota shopping center descendo da limusine, seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão parei, falei, hey. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Ei, psiu. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Ei, oh, coração tá de brinde, tô em liquidação. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão parei, falei, hey. Psiu. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá te prende, tô em liquidação. Hey, see you girl, meu coração tá te prende, tô em liquidação. Ei, hey, oh, meu coração tá te prende, tô em liquidação. Mas quem nasceu pra lagartixa nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole. Quem nasceu pra lagartixa nunca chega jacaré. Eu já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. E rieccoci, bentornati, sempre su Liberi Dentro Due Radio TV per la nostra seconda parte con l'ospite. Con noi c'è sempre Antonio Mero. Ciao Antonio. Ciao Caterina e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Amici detenuti. Antonio che ha un vulcano di idee, è stato un ex insegnante, editore, autore di guide di pubblica utilità e nel corso di queste interviste che sì, parlano in qualche modo, certo a partire da te, delle iniziative però che a livello cittadino e nel territorio in cui vivi, la bellissima Sicilia, ecco ci portano però a parlare di diversi ambiti. Oggi ci spostiamo a parlare dell'associazione sociosanitaria Mai Più Solitudine, che opera su tutto il territorio nazionale nell'aiuto delle persone proprio a 360 gradi e nell'assistenza dei malati oncologici e quindi insomma raccontaci un po' anche qui come nasce questa idea. Allora io nel 1996 ho ideato il primo portale a livello sanitario che si chiama guidasanitaria.it, è collegato anche col ministero, ancora è esistente, vive ancora. Dalla guida sanitaria, sempre autofinanziata, quindi io resto sempre un editore libero a 360 gradi, nasce una forte esigenza per curare il tumore odierno, che è la solitudine. La solitudine è la malattia più grossa, più devastante che oggi esiste e uccide tante persone nel silenzio generale. Ecco che io ho detto, noi non dobbiamo più restare soli. È chiaro che ci sono tante iniziative, ma la nostra è un'iniziativa di una grandissima umanità e si chiama proprio Mai Più Solitudine, nata almeno mi pare 10 anni fa circa. La cosa più importante, l'attività più importante è quella dell'ascolto, quindi noi, anzi qui, permettimi di salutare una nostra amica, Sonia, che ci ascolta e ci vedrà sicuramente, con la quale io ho una bella corrispondenza già da qualche anno. Mai lasciare soli le persone che hanno bisogno di te, anche solo di una parola o anche solo di andare a fare la spesa per loro o di accompagnarli al teatro e al cinema. Io per esempio accompagno una signora anziana al teatro, a lei piace molto la lirica, a me magari un po' meno, a me piace la sinfonica, però siccome lei è grande, eccetera, mi telefona e mi fa, che fa Antonio, mi vieni a prendere, andiamo a vedere Sonnambula, eccetera, eccetera. E io la vado a prendere, eccetera. Allora noi facciamo tante di queste piccole azioni che in sé sembrano piccole, ma sono grandi. E lo facciamo in modo assolutamente gratuito. Anche l'accompagnamento dei malati oncologici al Policlinico Universitario di Catania o in altre parti, anche in Sardegna, siamo anche in Emilia potrebbe iniziare qualcosa di questo tipo, lo facciamo in forma assolutamente gratuita. Qui a Catania ora un imprenditore ci sta regalando un pulmino per fare anche il fine settimana. Quindi io vado a prendere a casa i vari vecchietti e faccio fare un giro di weekend, o siamo fuori 2 giorni oppure siamo fuori venerdì e sabato, venerdì, insomma ci organizziamo e visitiamo sia la Sicilia e anche la vicina Calabria. Ecco. Bellissimo. Questa è Mai Più Solitudine. Fra l'altro, siccome hai salutato Sonia, che saluto anch'io perché è un contatto nostro comune, anzi ci ha fatti incontrare oggi, un luogo di solitudine è anche il luogo dove si privano le persone della libertà personale. Sto parlando del carcere, chi ci ascolta dalle carceri lo sa bene, cioè è un luogo dove si vive questa solitudine, ma spesso le persone sono capaci, molto più di altre, di grandi gesti di solidarietà. E infatti proprio benissimo. Sonia ha dedicato il suo libro di poesie, perché anche lei è una scrittrice, grazie, lo fai vedere, il canto di Jemaya. Jemaya, esatto. Si pronuncia così, esatto. E lo ha dedicato, raccontaci tu, a chi lo ha dedicato? Questo libro, A Mai Più Solitudine, ha dato a lei delle copie in beneficenza che io ho non venduto, ho ceduto attraverso un contributo che loro danno, e questi soldi li abbiamo riversati per il servizio dell'accompagnamento dei malati oncologici. Esatto. Quindi grazie a Sonia per la generosità e l'immensità del suo cuore. Poi le poesie sono veramente molto molto interessanti. È un po' il suo percorso dal 2012, mi pare, fino al 2019. E Antonio, per chi ci stesse ascoltando anche tra la cittadinanza e volesse leggere questo libro, dove lo può trovare il canto di Iemaia? Ma può sia rivolgersi direttamente a Sonia, no? Oppure, diciamo, la casa non esiste in libreria. Quindi può eventualmente scrivere a maipiusolitudine@libero.it e fare una richiesta e noi glielo spediamo. E quindi questa può essere un'idea per chi vuole leggere questo libro, a contattare la vostra associazione, magari farselo spedire a casa e sostenervi, anche conoscervi. Certo, Ma chi vuole dare un raccontami, contributo. anche sono curiosa, come hai conosciuto Sonia? Allora, io stavo vedendo il programma della Leosini, che ieri poi ha iniziato un altro programma su Rai 3, dove è finita Baby Jane, una cosa di questo tipo. Allora era Storie Maledette. Diciamo che ho seguito con molta attenzione questa trasmissione. È chiaro che la Leosini doveva fare anche spettacolo, no? Doveva tirarsela alla trasmissione, per cui magari non è stata condotta a favore tutto di Sonia, diciamo. C'è stata qualcosa che non è andata, ma mi ha colpito lo sguardo, gli occhi e la dolcezza di questa signora, e poi come alla fine io ho dedotto come è più facile in Italia da vittima diventare carnefice. E la verità è questa: questa signora, quello che è tutto documentato, perché le denunce che ha fatto contro la persona che poi purtroppo è stata uccisa, è chiaro, materialmente non ha mai avuto nessuna sua denuncia, ha avuto mai successo. Quindi non l'hanno mai tutelata, cioè è andata così la situazione. Per cui materialmente questa donna da vittima è diventata carnefice. Allora io sono rimasto, non voglio entrare in merito, giusto? Ma io Certo. voglio dire solo questo. Spesso si fa tanti anni di carcere, secondo me, da innocenti. E quindi questo è un vero problema. Tanti detenuti, molti detenuti, secondo me, sono anche innocenti, però non riescono a dimostrare la propria innocenza. Io sono rimasto colpito, ho scritto la prima lettera, lei mi ha risposto, poi ho scritto la seconda, lei non voleva più rispondere, poi mi confidò dopo che è stata la sua cancellina a dire: ma come, questa è una brava persona, ti sta scrivendo, eccetera, perché non gli devi rispondere più? E così la nostra amicizia è durata e dura tuttora. Dal giugno dell'anno scorso, dall'edizione di Storie Maledette dell'anno scorso, quindi è quasi un anno e rotto. Bello, bello, è vero, possono nascere anche dei rapporti di amicizia, anche fra Sì. liberi E e non liberi in questo momento, poi nella speranza che ci si ritorni a rivedere. abbiamo avuto anche una bella idea, perché secondo me lei nella revisione sarà assolta. Dalle nostre lettere, che sono tantissime, tireremo fuori un libro che si chiama Storia di un bacio benedetto, una cosa di questo tipo. È veramente per dire che ci si può veramente aiutare, stare vicini. Cioè, potrebbe essere proprio come si dice, il premio di non essere più soli. Ecco. Storia Bello. di un bacio benedetto. È un modo anche questo di mantenere delle amicizie anche fra liberi e non liberi in questo momento. E dalla vostra esperienza anche di carteggio nascerà un libro, Storia di un bacio benedetto, per raccontare anche tutto quello che vi siete scritti, può anche essere, diciamo, un modo per riallacciarsi al tema di cui stavamo parlando prima, di mai più solitudine, quindi di cercare un modo per avvicinare le persone anche attraverso la scrittura, attraverso le lettere. Io, Antonio, ti ringrazio grazie di essere a stato te. Qui, lanciamo la canzone finale, restiamo con Battiato e il brano è La Cura, e ci rivediamo tra pochissimo per i saluti finali. Ciao Antonio, a domani. Grazie, ciao. Ti proteggerò dalle paure e delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale e Dio avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore. E rieccoci dopo aver ascoltato il nostro Antonio Mero tutta la settimana con noi su Due Radio fino a domani. Lanciamo le rubriche Oggi Parliamo Di. Abbiamo le pillole di Antigone a cura del difensore civico dei detenuti di Antigone, e poi a seguire Percorsi di Pace con due volontari, Barbara e Sabba, che leggeranno e ci canteranno delle canzoni. Ci rivediamo domani. Un saluto da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco e la nostra tirocinante Diana Bota. Ciao! Liberi Dentro e Du Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.